Si constata un incremento dei poveri. Si calcola che 3 milioni di italiani andrebbero ad aggiungersi ai già 5-6 milioni di poveri esistenti, portando la quota dei poveri a pieno titolo della popolazione italiana al 15%. Ora, il problema della povertà non è un problema esclusivamente dei poveri stessi, ma riporta alla luce una quantità di questioni di ordine sociale che comporta per l'intero paese. La esclusione, la inamovibilità di questa condizione dà l'idea di una comunità nazionale in estrema difficoltà. Occorrerebbe da subito di disegnare una strategia di impegni, investimenti, capitalizzazioni, debiti finalizzati, ma per questo è necessario agire presto. Ora, anche in questo caso ci troviamo di fronte a una impotenza, a una passività della politica italiana. Non entreremo qui, lo abbiamo già fatto in passato, nella discussione su quanto siamo nell'ambito della costituzionalità democratica o meno. Il problema non è formale, è sostanziale. Sostanzialmente la politica oggi non si fa carico delle questioni sociali aperte dal Covid-19, non si fa carico della progettazione del rilancio dell'economia di questo paese. Tutto questo avviene in modo marginale, quindi senza una grande capacità di riflessione, di discussione e di decisione comune, con piccoli provvedimenti parziali che dimostrano continuamente di non essere sufficienti, di non funzionare. Un'altra considerazione riguarda la sanità. Abbiamo avuto conferma in questa settimana del clamoroso fallimento della sanità territoriale, del quale dobbiamo prendere atto, e che è stata invece la forza di chi ne è uscito meglio, per esempio la Germania. Oggi non siamo in condizione di fare i tamponi, se non una quantità irrisoria. Possiamo tornare a uscire e a farlo con le mascherine, ma le mascherine sono poco reperibili, sono poco controllate. Ognuno fa quello che vuole perché ormai è obbligatorio averla, ma che sia una mascherina adeguata, chi lo sa. E poi c'è stato l'episodio della possibilità di fare test sierologici a pagamento da parte dei privati cittadini, con richiesta del medico di famiglia. È esplosa una questione significativa. Il medico di famiglia non è un passacarte, non è uno che a capriccio del suo assistito può prescrivere esami. Esiste una metodologia, esiste un criterio in base al quale si fanno i test sierologici, a parte il fatto che, essendo affidati a strutture private, pare che costeranno dai 30 ai 60 euro. Chi fa fronte a questa spesa? Il privato cittadino? E allora ancora una volta escludiamo i poveri. I test sierologici non se ne fa uno, probabilmente se ne devono fare due o tre per persona. Cominciano a essere delle cifre consistenti, ma soprattutto nell'ambito di quale programmazione rientrerebbe la raccolta di test a tappeto, come potrebbe essere in questo caso. Ancora una volta il problema è di un governo sistematico della sanità e dell'assistenza, aumentando e non diminuendo, come ha recentemente riconfermato Jeffrey Sachs, aumentando l'equità sociale. Infine, la questione della autocertificazione. Ancora una volta l'autocertificazione ci lascia in un terreno di grande ambiguità. Una manifestazione prudentissima di persone distanti tra loro è stata sciolta e sono state comminate delle multe perché si trattava di avere violato il distanziamento sociale, ma le persone erano distanti e avevano la mascherina. Era la repressione di una forma di protesta, ma allora siamo fuori dalla democrazia. La questione della quale abbiamo già parlato, sollevata per esempio da Vladimiro Zagrebelsky, se noi si sia all'interno di un sistema di regole fortemente strutturate e che devono essere rispettate esattamente, o invece in un sistema di responsabilità civile per cui si fa affidamento all'etica dei cittadini, è una questione lasciata nell'ambiguità, un'ambiguità nella quale il cittadino è costretto a prendersi alcune responsabilità, ma poi è trattato come una persona incapace e inconsapevole che deve essere controllata. Ma controllata su cosa? Controllare una certificazione è un atto. Controllare un'autocertificazione basata su un terreno così labile come può essere una risposta? E allora qui, al di là delle leggi, della loro maggiore o minore costituzionalità, siamo di fronte a una situazione nella quale non vi è la certezza del diritto e le forze dell'ordine a proprio arbitrio possono limitare o addirittura reprimere le espressioni del cittadino. Cittadino che, ricordiamo sempre, è sottoposto a una limitazione dei suoi diritti costituzionali, giustamente per combattere una epidemia, ma anche pericolosamente perché non si scherza con questi principi. Infine è continuata la quantità di cose che si dicono, fino a saturare le orecchie dei cittadini italiani. Insomma, a fianco della pandemia c'è anche la infodemia, una quantità, un profluvio di informazioni diverse, dai soggetti più diversi, dai politici agli amministratori, ai virologi, ai medici, ai commissari straordinari, al termine del quale non è affatto chiaro quale sia il messaggio.